perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Allora, è arrivato il giorno, ohimè, è arrivato il Black Friday, il giorno di cui parlano tutti, che tutti attendono, che ovviamente è un concentrato di polemiche, attese positive. Io devo dirti, persino scioperi, devo dirti che, utilizzando un termine che a te piace molto, sono stata ecumenica. Perché? Perché ho accontentato sia il mondo online che quello tradizionale. Cioè, sei già partita col Black Friday in anticipo. Ma sì, ma in linea come hanno fatto molte catene commerciali, molti brand, insegne e anche il canale online, perché già siamo partiti da qualche giorno, bisogna ammetterlo. Quindi mi sono portata avanti con i regali di Natale, quindi diciamo ho approfittato in senso positivo, non è che ho fatto degli acquisti così casuali, però vabbè, ero lì pronta così, con la lista. La carta di credito già suda. Ma so che tu hai guardato anche il campionato di calcio per capire se questo Weekend Friday potesse interferire. Perché vorrei rivolgere un appello a tutti gli ascoltatori maschi proprio. Sì, esatto, disperati. E dire, forse voi pensavate, vabbè, ci facciamo sto Black Friday e poi il sabato e la domenica tranquilli. No, perché in realtà molte catene, sia per quelle online ma anche quelle fisiche soprattutto, hanno sconti per tutto il fine settimana. Sì. E allora, insomma, va bene, va abbastanza bene a noi interisti, perché tutto sommato Cagliari-Inter si gioca domani sera, sabato sera alle 20:45. A quell'ora speriamo che le maggiori catene siano, come dire, quasi chiuse o già ma chiuse. Io ti do la ricetta per risolvere il problema: statevene a casa a guardare la partita, dateci la carta di credito, non rompete le scatole e poi dopo non lamentatevi, ma non la prepagata con il limite, quella a uso illimitato, cortesemente. Allora, come avranno già capito i nostri ascoltatori maschi, ma non solo, ovviamente parliamo del Black Friday, ma ve ne parliamo anche per capire come muoversi, come evitare magari qualche brutta sorpresa, quali diritti abbiamo. Sì, perché lì l'emotività parte, no? Tu vedi questi scontoni a 40-50%, vorresti comprare chissà che cosa, poi a parte il fatto che magari ti porti a casa qualcosa che non ti serviva per niente, di inutile, eccetera, però magari, ecco, preso un po' dalla foga, fai anche l'acquisto. È bello questo tuo momento di autocoscienza. Sì, è già finito. È già finito. Te lo dico già. E già vedo che stai compulsando nuovamente i siti per gli acquisti. Sì. Allora, ma quali diritti abbiamo? E poi, Deborah, sappi che c'è sempre il recesso, c'è il diritto di recesso se compri online. Io quindi non lo esercito mai, non va so bene. Come dire. È peccato. Però, se volete raccontarci cosa farete di questo Black Friday, avete dei dubbi su quello che state acquistando, avete dei dubbi sui siti, allora i numeri, i riferimenti nostri sono i soliti. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se volete, o anche davanti la giornata del campionato di calcio, lo dico per gli ascoltatori di sesso maschile, fossero interessati non ad altre. Non è proprio la giornata in cui questo tema ci interessa. Poi altra convocazione invece, SMS WhatsApp 349 238 6666. Ma secondo te c'è qualcuno che in questo momento ha lo smartphone in mano, con le cuffiette addosso, sta ascoltandoci e magari vuole raccontarci se è dentro qualche negozio, sta rovistando tra la merce a caccia di qualche occasione, ce lo vuole così raccontare, ma facendo volentieri, i ma nostri siamo reporter sul campo. Siamo campo qui di apposta, battaglia. Come dicono gli inglesi, arruoliamo i civili e quindi anche coloro che, non so, in negozio, lavorano nei negozi e magari sono sintonizzati su Radio 24, perché no? È una radio che fa bene, specialmente questa trasmissione, Due di Denari. Allora li invitiamo a scriverci o a telefonarci per raccontarci come sta andando il vostro Black Friday. Esatto, raccontateci se state ritenete di aver già fatto un affare. A fine puntata noi eleggeremo, a nostro insindacabile giudizio, l'acquisto più originale o quello che in ogni caso giudicheremo agli occhi dei Due di Denari il miglior affare del Black Friday. Guarda, lanciamo oggi questa sfida. Detto questo, ma perché non raccontiamo ai nostri ascoltatori come nasce questa tradizione? Magari molti non lo sanno, che cosa dice? Questa bella scheda preparata dai nostri amici della redazione, Giulia Lauricella e Marco Lombardo. E allora preghiamo l'amico Peter Bescapè. Agevoliamo la scheda. In principio era il Black Friday. Nella consuetudine americana, a partire più o meno dagli anni 50, viene definito così il venerdì che segue la festa del ringraziamento. Una giornata, tradizionalmente, di shopping per i cittadini a stelle e strisce che, dopo essersi dedicati al tacchino e ai propri familiari, si fanno tentare da prezzi stracciati, sconti e promozioni di ogni tipo. Il nero farebbe riferimento ai bilanci dei negozi, che chiudevano in positivo grazie alla grande affluenza. In caso di perdite, si sa, si usava invece l'inchiostro rosso. Non mancano comunque le leggende metropolitane. C'è chi attribuisce l'origine agli ingorghi del traffico o addirittura all'abitudine dei dipendenti di darsi malati per fare ponte con il weekend. Giornata nera quindi per gli imprenditori. Se un alone di mistero continua a circondarne la colorazione, è ormai cosa certa l'importazione europea e italiana in particolare di questa tradizione. Secondo un sondaggio Confesercenti SVG, sarebbero 14 milioni i nostri connazionali intenzionati a comprare, per un giro d'affari stimato in 1,5 miliardi. Offerte e pubblicità non mancano e funzionano in particolare le vendite online, senza ormai soluzione di continuità con il Cyber Monday, il lunedì seguente, nel quale in origine si concentravano le offerte per l'e-commerce. Iniziano le danze, quindi, per gli amanti degli acquisti, ormai proiettati sui regali di Natale. Meno contenti i dipendenti di Amazon, che proprio in questa giornata hanno deciso di scioperare chiedendo un migliore trattamento economico. Le catene della grande distribuzione accusano le piattaforme di concorrenza sleale e i negozi, pur raccogliendo la sfida, chiedono chiarezza, abituati a regole più precise in materia di offerte e sconti, stando alle quali per le promozioni si dovrebbero aspettare, almeno in teoria, i saldi di gennaio. E niente, dopo questa giornata di gloria che ho vissuto ieri, devo aspettare adesso gennaio per un altro momento di felicità. Detto questo, c'è una domanda per te, caro Mauro, da una un ascoltatore su WhatsApp. Sì. Anche se gli devo segnalare e ricordare che c'è imposta per te il venerdì e verso la fine del programma. Sì. L'amico ci chiede se si acquistano online prodotti che arrivano dalla Cina, sono soggetti al pagamento dell'IVA? Oh, santa pazienza. Se sì, ci sono dei limiti di prezzo? Ma parleremo di IVA più tardi, allora. Di no, di IVA Zanicchi, però. No, dell'imposta sul valore aggiunto, che ci è sempre cara. Sai che io dico, citando malamente Gozzano, IVA, mistero senza fine, bello. Va bene. Senti, presentiamo i nostri ospiti. Andiamo. Stamattina, che sono tanti, e quindi direi di salutarli tutti, no? Allora, cominciamo con Mauro Bussoni, segretario nazionale di Confesercenti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Confesercenti, che ha elaborato proprio questo sondaggio, questa ricerca che è stata anche citata nella nostra scheda. Poi Roberto Tascini, presidente di ADOC, perché le associazioni dei consumatori guardano e vigilano, non lo fa solamente l'IVA, caro Mauro. L'IVA ti guarda sempre, però anche le associazioni dei consumatori fanno del loro meglio. Esatto. E poi, però abbiamo anche, buongiorno dottor Tascini. Buongiorno a voi. E abbiamo anche Roberto Liscia, che è presidente di Netcom, Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, perché lo abbiamo già ricordato nella scheda, il Black Friday, cioè questo venerdì di gloria degli acquisti, nasce proprio per il commercio elettronico, quindi muove da lì, anche se ormai è diffuso un po' su tutti i canali di vendita. Anche se in realtà il commercio online avrà proprio la sua vera giornata di gloria, presidente Liscia, lunedì prossimo con il Cyber Monday, no? Perché abbiamo anche questa tradizione qua da segnalare. Buongiorno a voi, ma noi non facciamo distinzione di orario e di giorno, compriamo sempre. Noi compriamo sempre, voi intermediate, insomma, le merci per noi. Allora, qui tanti temi da affrontare. Bussoni, volevo cominciare un po' con lei, perché qua sembra che quando si parla di questo argomento bisogna fare la contrapposizione tra il commercio online, il commercio tradizionale, ma in realtà questa è una giornata, insomma, che va bene un po' per tutti, perché potete consentire in questi giorni un grande afflusso nei vostri negozi a molti clienti con sconti davvero importanti. Quanto avete stimato che possano spendere in queste giornate gli italiani? Ma guardi, glielo dirò subito dopo, mi piace però fare un'affermazione di partenza. Questa è un'occasione, ci fa capire come si può evolvere il mondo del retail e quale può essere invece il futuro di un'integrazione molto più stretta fra l'online e i negozi, diciamo così, fisici, i negozi di vicinato, i negozi di quartiere. Il Black Friday nasce sull'e-commerce. E propaga sull'e-commerce, sbarca in strada, è diventata una giornata importante. Noi come organizzazione è già da qualche anno che seguiamo e monitoriamo comunque l'atteggiamento dei nostri soci, degli imprenditori, anticipa un po' le vendite di Natale, ci farà capire, poi dopo vedremo come andranno le vendite di Natale. Quindi per voi è anche un test in questo senso? Assolutamente sì, ma è un discorso complementare. L'online ha bisogno dell'esercizio fisico, l'esercizio fisico sfrutta un'iniziativa dell'online e la sfrutta nel modo migliore, cercando comunque di fare delle offerte, presentandosi questa attrazione, questo, questo fenomeno del venerdì nero e quindi utilizzando comunque una iniziativa di natura promozionale che ci tengo qui anche a sottolineare, è fatta assolutamente all'interno di quelle che sono le regole riconosciute, eccetera, quindi non c'è da gridare allo scandalo. Poi dopo se c'è un problema di web tax per quanto riguarda chi opera sull'online e tutta una tassa di questioni, è un discorso diverso, però le attività promozionali, gli sconti eccetera vengono fatte normalmente, iniziative promozionali, però cerchiamo di capire qual è il volume. Noi abbiamo intervistato sia i consumatori sia gli imprenditori. I consumatori dicono, 14 milioni di italiani, un giro d'affari che si ipotizza di 1,5 miliardi, quindi importante, perché dai dati del Politecnico di Milano ci dicono che sono 800 milioni quelli che andranno sull'online, quindi 700 milioni andranno lungo la strada, quindi è una bella iniziativa anche per quanto riguarda le attività nostre. 108 euro la spesa media, si acquisterà un po' di tutto, dai viaggi. Io sono proprio in media, Presidente, facendo un po' il calcolo di quello che come? In media? Sì, ma guarda, ha azzeccato proprio pienamente quello che ho preso fino a questo momento. L'altra cosa curiosa è che comunque ci sono anche delle offerte da parte dei ristoranti, pubblici esercizi. Tutto, assolutamente. È diventato un fenomeno di costume. Io dico anche il fatto che sia così breve rende anche l'acquisto più interessante. No, io dico che è un peccato, insomma, fatene un po' di più. Che le cose brevi poi dopo sono anche le migliori. Quindi non c'è nessuna polemica fra online e... Ma questo lo sappiamo, Presidente. Noi non volevamo scatenarla, peraltro mi pare che fosse anche abbastanza chiaro, anche perché lei lo abbiamo intervistata anche quest'estate, più o meno sui stessi temi. Però siccome in questi giorni sono scivolate delle polemiche, eccetera, io ci tengo a sottolineare, e siccome noi veniamo sempre tacciati come coloro che comunque sono più retrogradi. No, lei è avantissimo. Quindi io ho voluto lanciare questa cosa. Quindi è assolutamente un fenomeno interessante, ma anche gli imprenditori sono interessati, i nostri soci aderiscono in misura importante, perché ci dicono il 33% sicuro, un'altra parte indecisa, però noi stimiamo che circa 200.000 esercizi praticheranno comunque questo tipo di attività. Poi dopo un po' di ritorno al, diciamo così, al positivo, dopo anni in cui comunque i consumi hanno avuto un periodo di grande stagnazione, noi stimiamo, e già col Black Friday si vede, che probabilmente il Natale, dal punto di vista degli acquisti, sia online che all'interno degli esercizi, sarà un buon Natale. Poi dopo ci sono sempre le variabili tipiche del nostro paese, l'incertezza sociopolitica, eccetera, che rischiano di rallentare. Quindi diciamo così, con i dati macroeconomici c'è un'Italia che va, che rischia di essere in qualche modo bloccata da una situazione sociopolitica che non è delle migliori. Vabbè, per un giorno mettiamo da parte questa preoccupazione e diamo un po' andiamo, a controllare perfetto. Che opportunità ci dà questa giornata. Gaudeamus igitur, però con circospezione. Allora io chiamo in causa Roberto Tascini. Acquisti online, acquisti in fase di sconti, sappiamo che a volte c'è una, come potremmo chiamarla, compressione dei diritti dei consumatori, dobbiamo avere qualche cautela in più in queste occasioni di sconti molto pronunciati, molto sostenuti, dottor Tascini? Sì, condivido perfettamente che può trattarsi indubbiamente di una opportunità che viene fornita, diciamo, ai consumatori. Dal nostro punto di vista è chiaro che i consigli che noi diamo sono quelli che in genere diamo anche nel periodo dei saldi e delle promozioni in genere, cioè quello di non abbassare la guardia e di adottare sempre il massimo della cautela e prudenza, cioè di non farsi prendere da un'eccessiva frenesia ed euforia. Hai capito, Deborah? Ma io sono un test, io sono semplicemente una giornalista che fa delle prove sul campo, professionalmente cerco di documentare al meglio i fenomeni per poi raccontarli, chiusa parentesi. Prego Tascini, l'abbiamo interrotta. No, infatti ha perfettamente ragione, però è chiaro che bisogna essere sempre molto razionali nelle nostre azioni, perché le opportunità e le occasioni indubbiamente ci sono, ma si possono anche annidare appunto anche delle situazioni spiacevoli e quindi dobbiamo essere guardinghi da questo punto di vista qui. Io il consiglio che do è quello sempre di pianificare gli acquisti. Oggi è avviato, anzi qualcuno l'ha avviato già dall'inizio della settimana, perché abbiamo parlato pure di Black Week, oltre che di Black sì. Friday, Cyber Monday, addirittura oggi ho visto c'è pure il Travel Deal Tuesday. Quindi... Oh signore, questo ci mancava. Questa ce la sì. siamo persa, perché noi del Sole 24 Ore in realtà sì. ne abbiamo notata un'altra, che è invece quella corrente di pensiero che oggi ritiene di non dover comprare nulla. Com'è che si chiama, Mauro? Il Nothing by Day, qualcosa del genere. Nothing by Day, esatto. Quindi no, oggi non compriamo niente esatto. per polemica contro il Black Friday. Esattamente, quindi ce ne sono un po' per tutti i gusti. Noi siamo sì indubbiamente molto creativi e fantasiosi, come d'altra parte ho visto pure che c'è la risposta cinese al Black Friday, che è il single day, quindi chiaramente quello per i single sono... sì, la giornata sì. della promozione, diciamo, degli esatto. acquisti soprattutto per i single, quindi pure lì devo andare in Cina, Mauro, guarda esatto e quindi da Cina sì. Tante opportunità, tante occasioni, ecco, magari se agiamo con un pochino di, anzi con molta razionalità, nel senso che noi dovremmo muoverci in anticipo, vedere innanzitutto cosa ci serve, di che cosa abbiamo bisogno, pianificare i nostri acquisti, verificare, comparare, e qui sono d'accordo anche ormai sul meccanismo di integrazione fra online e negozio fisico, per cui c'è chi si documenta online e poi l'acquisto lo fa al negozio fisico e chi viceversa gira per i negozi fisici e poi ovviamente si rivolge esatto. ai siti web. Dove tra l'altro trova, adesso la interrompo Tascini solamente per sì. segnalare i numerosi messaggi che arrivano, trovano prodotti anche scontati fino al 70%. Voi potete capire che noi possiamo, possiamo fare tutto il folklore che volete intorno a questo argomento, ma poi qua parliamo di portafoglio, di soldi, e a fronte di uno sconto del 70%, come fai poi, diciamo, a non che cercare... la tentazione è molto forte per il consumatore. Volevo capire Tascini, se esiste comunque, quando io compro online, sempre il diritto di recesso, come lei diceva, sì. cerchiamo di non comprare, di comprare quello che ci serve, di pianificare un po' le cose. Certo, se certo. poi ho sbagliato o nella frenesia del venerdì nero ho così acquistato cose che non sono quelle che esattamente che volevo, o semplicemente mi sono pentito, esatto. ho possibilità di tornare indietro anche senza con l'acquisto dubbio. Online. Fortunatamente c'è il codice del consumo di derivazione comunitaria, abbiamo tutele forti e quindi lo possiamo appunto esercitare. Tra l'altro, come associazione dei consumatori, noi abbiamo aggiunto, per quello che riguarda gli acquisti al di fuori dei locali commerciali, in particolar modo gli acquisti online, un'ulteriore garanzia e tutela. Abbiamo sottoscritto proprio la conciliazione paritetica, esatto. Esatto, la negoziazione paritetica con Netcom, che oltre a essere una garanzia, perché i siti che vendono online e che ovviamente si fregiano del marchio, del bollino Netcom, garantiscono ovviamente determinati servizi, ma qualora qualcosa andasse comunque non nel verso giusto, andasse storto, abbiamo la possibilità di recuperarla con una risoluzione extragiudiziale, appunto la negoziazione paritetica, a costo zero per il consumatore. E quindi anche questa iniziativa, appunto, insieme a Netcom, credo che sia ulteriore garanzia negli acquisti. Assolutamente. Allora, prima di sentire Liscia, visto che l'abbiamo chiamato in causa, allora per non interromperlo subito, visto che tra un attimo andiamo in pausa, direi che possiamo ascoltare l'osservazione, così la testimonianza del nostro ascoltatore Mauro, per poi fare una lunga chiacchierata con il presidente del commercio elettronico subito dopo la borsa. Sentiamo Riccardo? Sentiamolo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. Lei diceva, consigliava di comprare un prodotto qualsiasi, esatto, quindi un po' in contrasto con quello che ci stava raccontando esatto, il Presidente Haddock. Le porto la mia esperienza dell'anno scorso, poi non solo mia ma anche di altre persone che conosco. Sostanzialmente la frenesia di questi giorni di acquisto è tale per cui è anche semplice sbagliare a fare spedizioni, sì. a mancare le casse e quant'altro. Sostanzialmente l'anno scorso ho acquistato dei DVD, mi è arrivata una scatola con dentro il cellulare e altro. Quindi cosa ha fatto? L'ha tenuta Riccardo, ha rispedito indietro? Perché adesso il abbastanza... problema iniziale è stato, adesso dovrò restituirlo, eccetera, eccetera. Siccome Amazon stessa, con cui sono stato in contatto i giorni successivi, non è riuscita a risalire, in quanto il volume all'errore. È stato talmente esagerato il volume, che risalire è impossibile. Allora, io dico, a tutti quelli che conosco dall'anno scorso, dalla settimana. Comprate qualcosa. O venerdì stesso, una penna, qualcosa che vi serve, una cosa così, perché potreste ricevere un gradito omaggio. Vabbè, questo ovviamente è un caso... Un vero anticipo del Natale per Riccardo, che ci ha chiamato da Milano. Certo. Detto questo, non per fare adesso pubblicità all'azienda più contestata del momento per tutte le agitazioni che ci sono. Oggi appunto c'è questo sciopero di cui avete letto sui giornali, esatto. Sentito a Radio 24. Detto questo, da quello che mi risulta, in realtà sull'esercizio del diritto di recesso con loro non si ha veramente alcun problema, si restituisce, punto e basta, sia il riaccredito in carta di credito o si fa il cambio appunto della merce, naturalmente prendendo quello che è necessario, per cui chiaramente lui ha parlato di una circostanza che si è verificata nel periodo di maggior traffico, ma insomma con un po' di pazienza avrebbe riottenuto quello che voleva. Allora vediamo come vanno invece i mercati, quelli molto di bene. Cui parliamo tutti i giorni, sì. Però vi ricordiamo che anche durante questa breve pausa potete sempre chiamarci, scriverci, mandateci degli sms, dei whatsapp 349-238-6666. State acquistando? State compulsivamente acquistando, saccheggiando gli scaffali elettronici o fisici? Allora raccontatecelo qui a Due di Denari. Adesso Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Mamma mia, quanto l'hai sparata alta, Peter, veramente. A Peter questa canzone piace. Sì. Voleva arrivare velocemente a Friday per esatto. Ricordarci che è venerdì. Allora, venerdì nero in un senso. Ecco, però pagate in bianco, mi raccomando, non fatevi tentare da questa parola, che non c'entra niente con quello che pensate voi. No, per carità, che il mio cuore soffre, esatto. Perché se non voglio sentire queste cose. No, allora, vorrei chiamare subito in causa, però a proposito di regolarità, Roberto Liscia di Netcom, perché... ci ha scritto anche qualche ascoltatore, un'ascoltatrice soprattutto, la Valeria, esatto, Valeria, con carta di credito clonata, sono cose fastidiose, non sì. Solo il venerdì nero, ma proprio in generale. C'è sempre il caro vecchio bancomat, Valeria, non si scoraggi. No, più che altro, ecco, che si ricordi stesso. Che con la denuncia poi le società appunto della carta di credito, oltre al fatto che lei deve, ovviamente, cosa che aveva già fatto, bloccare la carta, restituiscono tutto l'eventuale mal tolto, gli acquisti fatti non da lei ma da qualcun altro. Ecco, ma allarghiamo un po' il discorso invece agli acquisti online con Roberto Liscia. Buongiorno Liscia, buongiorno nuovo. A voi. Allora, volevo dire, è molto bello poter acquistare da casa, avere a che fare con questi, con questo e-commerce, però c'è anche sempre da stare un pochino attenti, perché internet è un mondo molto ampio e, come sempre, in tutti i mondi molto affollati, non tutti possono essere corretti. Quali sono le precauzioni che dobbiamo sicuramente adottare, specialmente in giornate come questa? Intanto comprare da siti conosciuti, comprare da siti sicuri, comprare da siti che abbiano il sigillo di Netcom, comprare prodotti che non abbiano sconti talmente sconvolgenti da indurre in qualche misura ad essere portati ad acquistare prodotti che evidentemente non possono sostenere questi prezzi. Credo che questi siano norme di comportamento, come posso dire, normali, di buon senso, che devono avvenire online piuttosto che offline. E per tornare alla domanda sul tema della carta clonata, vi racconto un aneddoto capitato a me. Io ho una carta che non ho mai utilizzato. Ma me la dia a me, presidente Liscia, ma perché che gliela sperimento io, ma non si preoccupi. Volentieri, ecco. Volentieri, una carta mai utilizzata, che è stata, su cui sono stati fatti acquisti per 4.000 euro in Australia. Quindi quello che voglio dire è che il problema non è l'uso della carta online. Se c'è una cosa sicura è l'uso delle carte online, perché è la tratta più controllata di tutto l'emisfero occidentale in termini di sicurezza cibernetica. Il problema della clonazione deriva dal fatto che spesso i numeri delle carte sono prelevati da altri settori, da altri siti, da banche dati che non sono in sicurezza. Quindi il tema vero è la sicurezza dell'informatica, non l'acquisto online. L'acquisto online è sicuro, quindi non c'è distinzione di sicurezza tra una carta prepagata e una carta senza limite di spesa. Quindi andate tranquilli, il Cyber Monday e il Black Friday sono dei momenti di festa, come di importazione, come lo è stato Halloween, quindi stiamo importando diciamo momenti di grande festa. Fra l'altro sono molto lieto di vedere che questa festa coinvolga sia il fisico che il digitale, cosa della quale credo che dovremmo sempre di più far collaborare questi diversi settori, e non preoccupatevi degli aspetti della sicurezza sul pagamento. Ecco, dottor Liscio, ma la domanda vale un po' anche per gli altri ospiti che sono in collegamento con noi. Ma cos'è che si compra di più alla fine? Non so, farei proprio un giro di tavolo, cominciando da Mauro Bussoni. Bussoni, che cosa più o meno viene più acquistato? Ma guardi, lo sapremo poi dopo, a fine Black Friday, diciamo così. Però noi abbiamo fatto questo sondaggio, i consumatori ci hanno detto per il 63% prodotti di elettronica e informatica, moda, viaggi, altro. Qualcuno anche non sa quello che acquisterà, perché aspetta ovviamente di vedere se c'è effettivamente un qualcosa di particolarmente conveniente. Però in realtà davvero questa è un'iniziativa che attraversa in modo trasversale il mondo del commercio, dei servizi, della produzione. A me ha meravigliato un fatto anche nel mondo della ristorazione, cioè chi fa cena stasera troverà comunque delle offerte presso pizzerie, ristoranti, esatto, ed altro. Quindi è un, diciamo così, è quasi una festa inaspettata, un modo quello di anticipare le festività del Natale, mettendo un po' di allegria, perché poi dopo alla fine si creano delle opportunità vere di acquisto. Esatto. E più le opportunità vere di acquisto sono brevi nel tempo, credo maggiore sia anche l'interesse, quindi l'intelligenza di questo. Io devo dire che noi e molti dei nostri soci erano anche, qualcuno è anche critico, dicendo ma come noi sosteniamo queste cose, ci portano via, ci rovinano le feste di Natale e quant'altro. Non lo so, però magari le migliorano a coloro che invece stringono la cinghia per tutto l'anno e che in queste giornate si possono permettere magari l'acquisto tanto caldeggiato e desiderato per lungo tempo, e magari ecco abbiamo anche trovato un aspetto sociale positivo rispetto a tutta questa operazione che appare del tutto commerciale, presidente Bussoni. La vista proprio per la sua freschezza, per la sua originalità e anche per questo modo col quale si presenta, io credo che crei comunque un clima, ecco, sia propedeutica a creare un clima favorevole anche per gli acquisti di Natale. Ecco, io guardi, ne approfitto di questa precisazione, di questo scambio di battute tra Deborah e lei per dire, tra l'altro domani, non c'entra forse nulla ma forse invece molto, c'è la giornata del banco alimentare, cioè quella giornata in cui possiamo fare degli acquisti e donare agli volontari del banco alimentare che troviamo abitualmente fuori dai supermercati e fuori dagli esercizi commerciali, per poi essere distribuiti a chi invece non può permettersi, vive in condizioni di indigenza. Sappiamo dai dati Istat che purtroppo le persone in stato di povertà assoluta sono parecchie in Italia, quindi domani, visto che stiamo parlando di consumi, è una specie di festa del consumo questo venerdì, e che proseguirà, c'è anche questo modo invece di aiutare gli altri. Aiutiamo a far riempire i carrelli. Allora, ci dobbiamo fermare per ancora per qualche istante per darvi delle informazioni sulla viabilità, ma torniamo tra pochissimo con Due di Denari. Il traffico! Due di Denari. The Man in Black. Allora, la puntata ci sta sfuggendo via di mano, d'altronde quando ci si diverte il tempo vola. Sentiamo qualche ascoltatore da condividere poi con i nostri ospiti. Dobbiamo sentire anche Liscia, così per farci un po' una fotografia di quello che presumibilmente verrà più acquistato con il canale online in questi giorni. E però qualche ascoltatore, qualche cosa che non funziona sui prezzi in questi giorni, lo ha già notato, come è successo a Carlo da Reggio Emilia. Carlo, benvenuto. Salve. No, io praticamente 11 giorni fa avevo bisogno di un televisore in DVD. Allora sono andato in centro commerciale a Reggio e ho visto che questo televisore costava 200 euro. Solo che io sapevo che praticamente oggi c'era questa giornata, allora ho deciso di aspettare. Sono andato stamattina, lo stesso televisore, avevano messo 40% di sconto e costava 250 euro. E come? Costava di più che allora, non la settimana scorsa. Infatti io l'ho comprato, poi sono andato dal direttore e praticamente ho fatto un po' di casino. Alla sì. fine sono uscito fuori con il televisore gratis. Addirittura, vabbè, Carlo, adesso non dobbiamo invogliare tutti a fare questo. Detto ciò, allora, io la ringrazio. Quello che voglio dire è che onestamente ci sono delle truffe in giro. Carlo, allora questa è una cosa che molti ascoltatori segnalano che succede anche durante il periodo dei saldi. Tanto è sì. vero che noi molto maliziosi, perché sennò sembra che qua siamo gli sponsor, gli super sponsor del commercio ad ogni costo, così suggeriamo di fare la foto all'articolo che tu vorresti prima che parta la stagione dei saldi con il prezzo completo, per poi verificare se al momento in cui si applica il saldo da qual è il prezzo di partenza. Adesso Bussoni infatti... non sarà tanto contento di questa ricetta che io ho dato, però non sarà neanche contento di quello che ha sentito da Carlo. Bussoni, non sono contento di quello che ho sentito da Carlo, anzi sono contento di quello che lei dice, perché per me il consumatore e il commerciante lo deve prima di tutto tutelare. Il bravo imprenditore è quello che comunque rende trasparenza, fa le cose in modo corretto eccetera, in mezzo ad una moltitudine di imprenditori. Però anche qui il caso che ha portato è abbastanza curioso, che sia uscito poi dopo col televisore grande. Sì, adesso lì ovviamente chissà che casino che ha piantato il negozio. Non ho idea. Che c'è purtroppo qualcuno scorretto, c'è, è bene che venga punito chi si comporta in modo non corretto, ma non ha la vita lunga l'imprenditore che fa così. Quindi allora diciamo, in mezzo a tanti ce n'è qualcuno che balla nel manico, la stragrande maggioranza operano con correttezza, anche perché chi lavora bene ha un futuro, chi lavora male è finito. No, esatto. Enzo da Firenze, veloce, grazie. Ciao, volevo solo dire a tutti gli artigiani, imprenditori, a chiunque ha una piccola attività o un ufficio, approfittate del Black Friday per fare tutte quelle spese comunque obbligatorie, rinnovare i domini internet, i servizi backup, la PEC, perché ci sono offerte anche in questo settore, oppure una bella scorta di cartucce per la stampante, toner, carta... Tutte quelle cose che in un ufficio, nella tua attività, a seconda di cosa uno fa, comunque deve sempre comprare. Fate scorta, perché le offerte ci sono anche per queste cose a cui uno normalmente non pensa. Grazie Enzo, oh, che bel messaggio insomma. Grazie Enzo. Alessandro da Milano invece segnalava un caso un po' analogo a quello segnalatoci prima da Reggio Emilia. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Buongiorno, io qualche tempo fa avevo in mente di acquistare un televisore. Cosa ho fatto? Tabellina di Excel con i modelli dei televisori che mi interessavano sì. in verticale, negozi quelli più famosi che conosciamo tutti, dove ci sono sì. i centri commerciali, in orizzontale. Prezzi, stamattina ho controllato, in alcuni casi i negozi hanno addirittura alzato i prezzi senza mettere lo sconto, in altri casi hanno alzato i prezzi applicando poi il famoso 25% di sconto, che in alcuni casi poteva essere magari 10 euro in meno rispetto a quello che c'era settimana scorsa, in altri casi il prodotto era allora tale. Diciamo che in questa circostanza, grazie anche a lei Alessandro, poi velocemente una battuta finale con Tascini e Liscia, come dire, la situazione può fregare chi magari vuole acquistare un bene di cui non conosceva assolutamente l'andamento dei prezzi nella fase precedente. Per chi è magari particolarmente attento invece alla dinamica dei prezzi di un settore che gli interessa, sicuramente di questo si accorge. Io sì. avrei potuto rimanere tranquillamente fregata. Consiglio che già davamo nella prima parte della trasmissione, pardon, che davano i nostri ospiti Mauro Bussoni, Roberto Tascini, lo stesso Roberto Liscia, è attenzione agli acquisti d'impulso. Esatto. E in questo caso abbiamo un ascoltatore appunto che dice: io non stavo facendo un acquisto d'impulso, mi sono documentato in precedenza. Un flash di chiusura, Roberto Liscia, Netcom, a commento di quello che abbiamo sentito fino ad ora. Assolutamente, c'è una legge molto chiara che dice che gli sconti devono essere fatti con riferimenti a prezzi che sono stati effettivamente utilizzati in transazioni commerciali. Quindi gli sconti che non sono in qualche misura dimostrabili rispetto al prezzo di riferimento in realtà devono essere perseguiti. E questo in termini di trasparenza per il consumatore. E su questo la GCM dell'antitrust è stata ed è sempre molto chiara. Mm-hmm. E i siti che non ottemperano e non guardano a questa disciplina possono essere ovviamente perseguiti. Grazie, grazie a Roberto Liscia. Purtroppo devo interromperla per dare 30 secondi anche a Tascini, perché poi abbiamo la nostra super rubrica del venerdì. Tascini, in 30 secondi. Sì, i radioascoltatori ci hanno confermato che bisogna appunto documentarsi in precedenza e verificare e comparare sempre. E per i televisori, attenzione, c'è anche un'altra trappola. Dal 30 giugno 2022 andrà in vigore il nuovo standard DVB-Blu, il digitale terrestre 2.0, esatto. Guardi. Quindi ci potrebbero affibbiare un vecchio modello, quindi anche sì. Attenzione a questo aspetto. Siamo pronti. Sì, sì, però voglio dire agli ascoltatori, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, sì. Proprio qui a Due di Denari, allora sul nostro sito www.radio24.it nelle varie puntate trovate i podcast. Bravo. Con tutti i consigli, mm-hmm. Dovete cercare di VTB2. Bravo, e adesso è il tuo momento. C'è imposta per te. Questa perché? È incredibile. Non capisco cosa ci sia da ridere, non comprendo la tua ilarità. Guarda, dai, dello studio, ho la chiesto, si stanno ammazzando. Ho chiesto io di mettere questo commento musicale, sì? Perché parliamo, è tutta la mattina che parliamo di acquisti, allora anche io ti voglio segnalare una cosa dell'IVA a proposito delle piante aromatiche. Tu che sempre sei attenta, fai la spesa con attenzione. Da... Anche un po' compulsiva, ma la faccio. Va bene, ecco, allora volevo dirti, fai attenzione perché l'IVA, sì. Che sai che è un mistero senza fine bello, come già ti dissi. Allora l'IVA ti guarda e guarda anche il basilico, il rosmarino e la salvia. La maggiorana no? Aspetta, il basilico, il rosmarino, la salvia freschi, l'origano, aramettio sgranato, destinati all'alimentazione, sono gravati, oimè, da IVA al 5%. Dico oimè perché fino al 23 luglio dell'anno scorso era 4%, ma poi era super agevolata, adesso è solo agevolata. Ma mettiamo che tu voglia prendere anche il prezzemolo, la menta, l'alloro, la maggiorana. Qual è l'aliquota IVA corretta? Vado a caso, 7%? Ma no, 22%. Ah, non neanche un 10%? Ma se allora tu, come ha chiesto all'Agenzia delle Entrate un'azienda del settore, volessi mettere insieme in una confezione il basilico e la menta, l'alloro e la salvia, faremo una media, la maggiorana e no, tutto va al 22%. Bada, che ingiustizia. Ma perché l'IVA è un mistero senza fine bello. Sono discriminate le nostre, come le chiamiamo queste, no, le spezie, le piante aromatiche. Le piante aromatiche, questa discriminazione nel mondo delle piante aromatiche non ci sta bene. Adesso faremo una battaglia anche per loro, va bene? Guarda, sicuramente la abbiamo qui da Due di Denari. Ottimo. Voi da quale parte state, di quale pianta aromatica? Dalla parte del rosmarino, ecco. No, allora vi salutiamo naturalmente, esatto, auguriamo a tutti una tempo. Buona domenica, un buon fine settimana, un buon Black Friday, fate l'acquisto giusto naturalmente, e se qualcosa va storto scriveteci perché noi reinterpelleremo di nuovo i nostri ospiti, spiffereremo loro tutto quanto.